Possiamo aprire subito la discussione. Professor Schiera. Siamo subito. Siamo un po' incastrati. Sì, io vorrei dire due parole subito perché altrimenti poi credo che l'entusiasmo che mi ha preso dopo le tre relazioni di stamattina scemerebbe, insomma, e quindi non avrei più l'occasione, una volta che le cose entrassero come entreranno negli aspetti tecnici che io poi non conosco, eccetera, l'occasione di esprimere il mio ringraziamento ai tre relatori di stamattina, agli organizzatori del convegno per questo quadro interessante che è stato proposto, non so quanto nuovo perché non sono esperto di queste cose, ma mi pare probabilmente anche molto nuovo. Ecco. Io volevo solo, dopo questa che era però la vera ragione del mio intervento, cioè il ringraziamento che volevo porgere, sentito, anche fare la mia solita, adesso mi accorgo di aver lasciato però un pezzo dell'appunto che avevo preso al posto, la mia solita sparata, ecco, cioè una proposta di lettura per me, ecco, se non per gli altri, di questo periodo cruciale per la storia del Trentino, più generale direi proprio davvero per la storia costituzionale del territorio, ma del territorio italiano e tedesco e italo-tedesco, come diceva anche Prodi nell'apertura. Sentendo le tre relazioni su Hindelberg stamattina, mi è parso di capire che lui, questo principe, questo signore, si muove fondamentalmente utilizzando strumenti di regolazione dei suoi rapporti, dei rapporti politici che fanno capo lui diversi, tre fondamentali che interagiscono fra di loro: i privilegi con cui egli si rapporta alle comunità di valle, i contratti feudali con cui si rapporta ai nobili, alla nobiltà alta, e queste obbligazioni, queste Verschreibungen, queste cose che mi pare da un certo punto di vista quasi siano il reciproco dei privilegi, insomma, con cui si rapporta al signore tirolese. Ecco, questo mi pare è banale per qualsiasi studioso di storia del diritto o di storia costituzionale, è banale accertare questa pluralità di strumenti, no? Però mai, come stamattina, a me era capitato di averli tutti insieme, vicini, e di capire come questa triangolazione effettivamente prospetta nel modo migliore la complessità della situazione di potere in un'epoca di transizione come questa. Allora io appunto vorrei semplicemente, anche per i ragazzi che sono qui, che hanno seguito con tanta pazienza e sacrificio le cose di stamattina, forse far capire a loro, insomma, che questa qui è una cosa importante, cioè che questo sistema di relazioni diverse che fanno però capo a una persona sola è qualcosa che distingue profondamente un sistema politico come quello lì, no? Da un sistema politico come il nostro, che invece apparentemente si muove con forme, secondo forme più semplici. Ma, e qui vorrei appunto chiudere con una leggera provocazione, è proprio vero che è così diverso allora da oggi? E questo chiederei ai tre relatori. Insomma, a me pare che l'opera di razionalizzazione che Hindelberg tenta, anche grazie alla sua ottima formazione, no? Capacità anche giuridica, proprio tecnica, a me pare che quest'opera di razionalizzazione delle Hindelberg non sia tanto orientata nel senso di tentare di porsi come principe territoriale, cioè non mi pare che la sua ambizione in questa operazione di continuo commento, no, del pregresso, eccetera, sia quello di acquistare sovranità. Cioè non mi pare che Hindenburg abbia ancora il problema della sovranità, per dirla tecnicamente, insomma. Che pure è un problema che già in quell'epoca e senz'altro di lì a poco diventerà il vomere, no, dello sviluppo storico, costituzionale e politico. Mi pare di più che per Hindenburg il problema stia nel fatto di porsi come punto d'equilibrio possibile fra pesi che stanno dentro il territorio o stanno fuori, che comunque però in qualche modo si ricollegano a lui. Questo vorrei sapere se i miei colleghi redattori lo condividono oppure no, perché se fosse così, allora, e qui verrebbe di nuovo il discorso dell'oggi e dell'ieri, mi chiederei anche se per ipotesi un problema, un atteggiamento di questo genere dell'Hindenburg, del punto d'equilibrio, non sia da poter ricondurre a voler usare modelli, ricondurre al modello dell'autonomia. Ecco, che allora io così surrettiziamente infilerei dentro, sperando di non offendere nessuno e di rimanere in tema, perché mi pare che tutto sommato così forse noi riusciremmo anche a intravedere lontano una qualche radicetta di una roba che anche oggi ci sta a cuore a noi qui. Grazie. Grazie. Altri interventi in modo da ampliare? Scusa, io volevo fare subito un'osservazione di carattere generale. Potete rispondere di volta in volta? Non so. La parola Varanini, allora. È un'osservazione molto banale. Ne parlavo adesso con Rittman. Cioè, credo che non si debba mai dimenticare che tutte queste realtà delle quali abbiamo parlato sono realtà vecchie, che hanno 100 o 200 anni alle spalle, che l'essenziale di certi giochi riguardo alla superiorità politica delle autorità tirolesi, riguardo ai rapporti con i vassalli e anche riguardo ai rapporti con le comunità di valle, è già fatto appunto nei secoli precedenti. Insomma, certe situazioni sono solidificate e non sono contestabili, insomma, e quindi, cioè, avevo quasi l'impressione che avessimo dato un'impressione di eccessiva novità, diciamo così, di questa iniziativa di Hindenburg, che in realtà rivede delle bucce, gioca su certi margini che ci sono, ma non può fare più di tanto. Ecco, era semplicemente un'avvertenza di carattere generale che credo possa essere. Altre cose? Più ragionando così a caldo, sul piano di impressioni, che non di vero contributo, di vero apporto alla riflessione, perché insomma non posso che felicitarmi nel sentire che spira un'altra aria in queste ricerche, e era ora, sono felice di questo. Ma ecco, così l'impressione allora di uno che razzola ancora così, a qualche modo, in queste cose. Ecco, se io mi metto nei panni di Monsignor Kögel, no? Che certamente ha dei grandi meriti fino ad oggi, perché è quello che ha messo in mano un libro, insomma, consultabile perlomeno per queste cose. Ecco, devo dire, per un verso ho sentito una doccia fredda, vero, in questo ridimensionamento della sovranità, vero, che Rittman ci ha presentato. Dall'altro, mi sono tirato sull'animo, vero, a sentire come, malgrado questa riduzione all'ombra, vero, di un'autorità principesca, dall'altro canto, c'è un campo di azione nel settore della feudalità e nel settore dei rapporti coi comuni, è molto, molto concretamente rapportato al territorio, che lascia sentire una volontà di gestione, un concetto di qualche cosa, no? Ecco, e naturalmente qui è il caso di chiedersi quale concetto ne viene fuori per noi di quella che era o non era la consistenza del Principato Tridentino allora, e anche, forse a monte, quale concetto aveva l'interessato di questa, adesso non la chiamo più sovranità, chiamiamola come vogliamo, insomma, questa posizione di equilibrio, questo punto di convergenza, questa realtà. Ecco, e credo che questo vada comunque consolidato e ampliato, anche perché, come qualche altra volta ho detto, ecco, noi, mentre per un verso abbiamo visto quasi volatilizzarsi l'interesse per quel ganglio vero che poco o tanto era il governo del Principato, per l'altro verso non abbiamo aiutato per niente a recuperarlo, in quanto l'interesse campanilistico, l'interesse decentrato alle singole comunità, la enfatizzazione di quel tanto di autonomia che queste comunità scoprono di aver avuto e che viene anche spesso e volentieri glorificato e insomma, esaltato, ecco, fa perdere di vista quello che invece era l'elemento che in qualche maniera le coordinava. Ecco, perciò il discorso di Baranini sulla regolaneria maggiore, sui rapporti tra il vescovo e comunità, anche quelle più illustri e cospicue come quella di Fiemme, che non era una repubblica fuori dal mondo abitato di allora, ma era un elemento entro il Principato, va pur tenuto presente, e senza tutto questo va raccordato, questo si collega anche con quanto diceva professor Schiera, appunto, di questo tessuto che va tenuto d'occhio nel suo insieme. E in questo contesto mi è venuta una volta di più l'impressione che, e qui vengo una domanda, che veramente sarebbe stata una gran bella cosa se, come si desiderava, si fosse potuto avere una ulteriore relazione che cercasse di sviluppare la gestione economica, l'amministrazione del Principato. Ecco, la speranza nostra era che il professor Malicek lo potesse fare. Per lui è sopravvenuto nel frattempo il trasferimento o la promozione alla cattedra di Graz, e quindi è stato impossibilitato, ci ha in qualche maniera compensato col suo intervento di questa mattina, ma ecco, il desiderio rimane aperto, almeno io vorrei proprio in questa occasione verificare anche quelle che erano state le mie idee progettuali, per dire è vero o non è vero che questo aspetto potrebbe ancora integrare il ragionamento. Secondo, è effettivamente possibile affrontare l'argomento sulla base della documentazione a quanto la conoscono loro, oppure è un puro sogno che noi non possiamo sviluppare, perché certamente il Principato di Trento non ha i Reichsbücher della contea tirolese per poterlo fare in una maniera massiccia e sistematica. Però, ecco, un'indagine maggiore su quel che è stato il complesso fiscale, il congegno anche delle varie collette, la colta famosa di tassa di tipo pubblico rispetto ai censi, ai beni più patrimoniali della mensa vescovile. Qualche volta mi passa per l'anticamera del cervello, ma approfitto dell'occasione per chiedere se ecco, da parte loro la cosa merita di essere ulteriormente incrementata e promossa, oppure se è un puro sogno sul quale bisogna anche rassegnarsi. Grazie. Volete rispondere, professor Riedman? Forse la persona più adatta è il professor Malicek. Cioè, io dalla documentazione che avevo ho recepito l'interesse fortissimo che così, avrebbe un'indagine di questo genere. Le fonti per l'Episcopato di Hinderbach, a quanto ho potuto vedere io, ma può darsi che appunto in altre sedi ce ne siano di migliori, non sono ricche di dati analitici, ecco, non sono ricche di dati analitici, per questo momento cominciano, non a caso, forse non a caso per il periodo successivo, insomma. ci sono dati che fanno impressione, appunto, vedendo all'età di Massimiliano le ripartizioni delle steure, si trova che le valli di Non e di Sole pagano 250 cavalieri, lance, quello che è, mentre Trento ne paga 100, cioè ci sono degli scarti che rinviano ad una situazione che certamente così merita di essere approfondita. Insomma. Però credo, ripeto, che per lo specifico periodo innerbacchiano, lo sa forse anche il dottor Bellabarba, sì, grande abbondanza di materiale analitico non ci sia. Beh, per quanto riguarda il materiale archivistico, conosciamo per l'Inderbach dei registri massariali, stesi di mano dei massari del vescovo che si alternano di anno in anno, se non sbaglio, ma senza scadenze precostituite, e che purtroppo sono disseminati parte in archivi familiari, parte in archivi conservati tuttora nella Biblioteca Comunale di Trento e parte, ma senza un ordine preciso, nell'archivio, nella sezione latina dell'archivio di Stato di Trento. Quindi sì, ci sono obiettive difficoltà di reperimento del materiale archivistico per quanto riguarda un possibile studio amministrativo, e soprattutto c'è forte la difficoltà di organizzare serialmente questi dati, almeno per tutto il periodo innerbacchiano, a meno che non ci si rassegni a collazionare, a cucire uno all'altro registri di persone diverse, ma è un'impresa obiettivamente piuttosto difficile, almeno adesso. Grazie. Il professor Malex, che è stato chiamato in causa così, anzi approfitto poi per congratulazioni a nome anche di tutti voi per la chiamata, grazie, che stamattina mi ero dimenticato. Originariamente mi è stato attribuito il compito di fare una relazione sull'amministrazione fiscale del Principato Vescovile. Da Grazia era veramente difficile, io ho cominciato a studiare la questione e mi sono reso conto abbastanza presto che da lontano è impossibile, e vedendo il materiale stampato non si può fare un'analisi approfondita. Sarebbe veramente un argomento di tesi di laurea di uno studente bravo, di raccogliere tutto il materiale sia qui a Trento, a Innsbruck, negli archivi privati che esistono qui nel Trentino e in Alto Adige, una serie di conti, di Reitbücher per Hindabach non esiste, e ho cercato forse di reperire qualche documentazione sul dominio temporale di Sigismondo nel periodo immediatamente prima dell'inizio del suo regime, e anche lì non c'è niente. Quindi sarebbe necessario di raccogliere dati pazientemente da tutte le parti, ma è una lacuna che ho risentito molto, e ringrazio Monsignor Roggia di avermi perdonato il mio difetto di non aver fatto questa relazione. Sono iscritti a parlare il professor Sottili, il professor Politi e il professor Paglioni. Io avrei una domanda dettata da pure ragioni di curiosità da porre al professor Rittmann. E l'altro giorno abbiamo sentito varie cose sull'apertura italiana di Hindelbach verso il mondo dell'umanesimo, Zovenzoni, Mattia Tiberino, addirittura il Platin. Questa mattina lei ci ha illustrato gli stretti rapporti che esistono tra Trento e il Tirolo, da un punto di vista politico. Orbene, la corte tirolese è nel quadro della cultura tedesca della seconda metà del Quattrocento una corte molto importante, sia nella prospettiva del tardo Medioevo, come anche nella prospettiva del preumanesimo o primo umanesimo tedesco. Nella corte tirolese passa Martin Meyer, passa Gregor Heimburg, abbiamo sentito fare il nome di Ludwig Rath questa mattina, e nella corte tirolese passa anche Matthäus Hummel, che è il primo rettore dell'Università di Friburgo, e mi pare che l'Università di Friburgo sia voluta dalla corte tirolese. Ci sono stati degli scambi di carattere culturale tra Trento e la corte tirolese, oppure questa forma di sudditanza politica del Principato Trentino verso la corte tirolese ha allontanato culturalmente Trento dal Tirolo. Sie, professor Rippen. Ich darf ganz kurz deutsch darauf antworten. Es gibt selbstverständlich immer Beziehungen zwischen dem Hof von Trient und von Innsbruck bzw. dem heutigen Tirol. Der Bischof von Trient kommt des Öfteren in das Inntal. Er hat dort geistliche Funktionen wahrzunehmen und hat auch enge Beziehungen zu Sigmund. Sigmund nennt ihn seinen Freund. Er ist also durchaus eingebunden in die Tiroler Präsenz. Was genauere Beziehungen anbelangt zwischen dem Hof und dem Bischof, bin ich zurzeit überfragt. Ich habe mich mit kulturellen Dingen nicht beschäftigt. Kollege Malecek hat schon wieder die Hand gehoben, er möchte dazu etwas sagen. Er ist dabei, eine größere Studie vorzubereiten, genau über diese Zeit, über eine hervorragende Persönlichkeit, den ersten Grafen Trapp, Jakob Trapp, der aus der Steiermark nach Tirol übersiedelt und hier eine hervorragende Rolle spielt. Er ist zurzeit der beste Kenner auf diesem Gebiet. Also darf ich ihm wieder das Mikrofon geben. Mi scusi Nick che prendo di nuovo la parola. Il alto livello culturale della corte di Sigismondo, la presenza di vari umanisti o preumanisti è un po' un mito. Risulta dai lavori del Hamma del secolo scorso che sono stati ripetuti più o meno dal Kramer dopo la guerra, ripetuti sempre di nuovo anche un po' a causa di Eleonora di Scozia, la moglie di Sigismondo, che veniva dalla Francia e che portava dalla Francia un certo bagaglio culturale. Si diceva anche che era traduttrice di un romanzo cavalleresco, ma tutto ciò è messo in dubbio. La presenza di Rath, di Hummel, di Wenger, di Martin Meyer, di Gregor Heimburg, eccetera, non era per scopi culturali, ma unicamente per scopi, diciamo, finanziari. La corte di Innsbruck era una delle più potenti finanziariamente in tutta la Germania, che risultava dalle miniere d'argento di Schwarz. E quindi tutta questa cerchia di personaggi colti di tutta la Germania veniva a Innsbruck per mettersi al servizio di Sigismondo, non perché Innsbruck era così un Parnasso umanista, ma per lavorarci e guadagnare la vita. Quindi Sigismondo, dal resto, aveva una piccola biblioteca, ma una piccolissima biblioteca nella quale figuravano calendari, trattati di, come si dice, di Pferdezucht, di allevamento dei cavalli, ma non testi latini, qualche dizionario, niente di speciale. Dunque i rapporti fra questi personaggi intorno a Sigismondo con Hindabach sono ancora da studiare, ma ho qualche dubbio sul livello preumanesimo, sul livello considerevole della corte di Innsbruck. Grazie. Grazie. Professor Politti. Io purtroppo mi sono occupato di queste tematiche solo molto meno di quanto avrei voluto in rapporto ad altri miei studi. Ho seguito con molto interesse le relazioni di questa mattina e particolarmente intendo riferirmi alla relazione del professor Varanini perché mi è sembrato di cogliere, ferma restando la sua precisazione ultima che mi trova perfettamente consenziente, c'è un quadro con alcune grandi coordinate che sono quelle e all'interno di queste poi si gioca. Ecco, anche stamattina, come ieri per altri aspetti, il mio pensiero faceva poi continuamente la spola tra il vescovo Giovanni Inderbach e Trento e Cusano e Bressanone. Ci sono tutta una serie di analogie molto profonde, secondo me molto significative, perché dalla relazione di Varanini mi sembrava di vedere dipartire alcuni fili dopo un 400 che aveva messo fortemente in pericolo l'esistenza stessa dei due principati vescovili esposti alla duplice pressione tirolese e veneziana, una linea di guadagno di margine che poi trova delle svolte e degli esiti anche drammatici agli inizi del 500. E qui, quando mi sono occupato di queste tematiche, mi sono trovato naturalmente davanti, leggendo alcuni elementi di bibliografia, a questa singolare alternativa da parte di alcuni storici. I sostenitori della oramai scomparsa di ogni autonomia e ruolo politico dei due principi vescovi, no? La loro sovranità ridotta a gesti cerimoniali, ha scritto Bücking, se non ricordo male, e dall'altro invece altre interpretazioni, sto pensando per esempio a Stella nel volume della Utet, no? In cui la stessa interpretazione dell'Antlibel dell'11 viene data in tutt'altra chiave, no? Cioè proprio come invece guadagno di spazio. Io nel riflettere su queste tematiche mi sono convinto che sarebbe un errore di prospettiva profondo da parte nostra tagliare un'alternativa che era nelle cose. Cioè il problema, mi sono convinto, allora era che non si capiva affatto quali fossero poi e quali dovessero essere in concreto i rapporti tra il Conte del Tirolo e i due principati vescovili. Questo è di fatto il problema della guerra rustica nei due principati vescovili. Il problema che gli insorti tentano di tagliare e, secondo la mia personale opinione, la vera causa della guerra rustica nei due principati vescovili. Nel caso di Bressanone la cosa è molto chiara. C'è una prima chiarissima opzione tirolese quando ci si rende conto che un buon affare con Ferdinando non è possibile concluderlo, c'è una brusca svolta e quindi invece, e la stessa cosa succede per altri aspetti, un esempio vicino molto istruttivo a Salisburgo, no? Dove si tenta la secolarizzazione del principato e l'annessione sostanzialmente ai domini tirolesi, e poi dopo c'è la svolta verso la metà del giugno 1525, si ritorna a trattare con il vecchio principe, no? Con una disinvoltura da parte degli insorti, che in questo caso, nel caso di Salisburgo, è gente, non è il rustico, diciamo, con le scarpe grosse, sono imprenditori minerari, è gente che ha fior di agganci all'interno delle corti, no? C'è un chiarissimo gioco politico e alla fine si decide che no, che è meglio, anzi, marcare il distacco, diciamo, rispetto al Tirolo. Quindi tagliare il problema significa, secondo me, non cogliere che l'ambiguità non è che ce la immaginiamo noi, l'ambiguità era nelle cose, il problema era nelle cose, era il grande problema che esisteva. E altro elemento che è stato richiamato dal professor Malecek, se non ricordo male, l'impossibilità di considerare queste vicende in modo decontestualizzato. Cioè quello che fanno gli svizzeri non è un elemento secondario in tutto questo quadro, è un elemento assolutamente decisivo. Ancora nel 1561-62, se andiamo a vedere l'episodio della congiura di Dosser, siamo sempre a Bressanone, ancora il perno fondamentale di questa sono gli svizzeri. E poi bisogna vedere quali svizzeri, perché gli svizzeri di cui di solito si parla sono i grigioni, sia come riferimento di alleanza, sia come modello politico-istituzionale. Però ci sono anche altri svizzeri che compaiono poi inopinatamente e in misura molto massiccia, per esempio sotto la forma di Zurigo. L'elemento che più mi ha sorpreso in alcune mie recenti ricerche è vedere affiorare in alcuni documenti il modello zurighese, non chiedetemi come, è una cosa che mi risulta ancora incomprensibile, no? Comunque il modello zurighese è proprio il tentativo di riportarlo pari pari all'interno dei due principati vescovili. Quindi il problema dei rapporti tra questi stati è in larga parte anche, io credo, una funzione di un contesto che è estremamente ampio e che deve essere tenuto presente, secondo me, pena l'infilarsi in una secca, no? E il dover continuamente poi dosare magari gli elementi per dire no, c'è l'autonomia, invece no, non c'è l'autonomia. C'è, non c'è, e questo secondo me è precisamente il problema. Grazie. Professor Rittmann. Die Einbettung dieses Problems in größere Zusammenhänge müsste selbstverständlich immer beobachtet werden. Es kommen nicht nur die Schweizer als eine Herausforderung dazu, es kommt dazu auch die Bedrohung durch die Türken. Ein weiteres Element sind die schwierigen Beziehungen zwischen Tirol und Bayern, beziehungsweise die schwierigen Beziehungen zwischen Tirol und dem Kaiser, also zwischen Sigismund und Friedrich III. Ein weiteres Problem, das die Sache noch komplizierter macht, sind die Beziehungen zwischen Tirol und Venedig. Also in diesen ganz großen Zusammenhängen müsste man alle diese Fragen untersuchen. Ein weiterer Gedanke, der angesprochen worden ist, ist ein Vergleich zwischen Nikolaus Cusanus und Hinderbach. Zeitlich sind sie verschoben. Aber es gibt sicher starke Parallelen. Der Unterschied besteht meiner Meinung nach darin, dass Cusanus wesentlich radikaler seine Erkenntnisse durchzufechten versuchte, mit dem Ergebnis, dass er praktisch gescheitert ist. Aber so wie Hinderbach seine Bemerkungen macht zu früheren Registraturen, genau bemerkt, das ist richtig, das müsste geändert werden. Genauso hat auch Nikolaus Cusanus in Brixen seine Bemerkungen zu den alten Aufzeichnungen gemacht. Der Unterschied besteht sicher darin, dass der eine radikal war, während Hinderbach offenbar auf einer höchsten Ebene, wenn man hoch und nieder verwenden will, auf der Ebene der politischen Beziehungen zu Tirol Zurückhaltung geübt hat. Vielleicht hat er diese Zurückhaltung aber etwas kompensiert, das wäre psychologisch zu erklären, dass er umso mehr versucht hat, seine Rechte gegenüber den Kommunen, gegenüber den Comuni Rurali geltend zu machen oder auch in Bezug auf das Lehenswesen. Dort, wo noch Möglichkeiten bestehen, alte Rechte wieder zur Geltung zu bringen. Eben gerade deshalb, weil es auf einer höchsten Ebene nicht mehr in gleichem Maße möglich ist. Es kommt vielleicht auch zum Tragen dieses Bewusstsein, dass man doch nicht mehr ganz Herr im eigenen Haus ist, in dem berühmten Prozess gegen den Simonino. Oder nicht gegen den Simonino, im Zusammenhang mit Simonino. Hier ist offenbar eine Lücke. Hier kann er noch einmal tätig werden, ohne dass der Herzog von Tirol oder der Graf von Tirol ihm reinredet. Und diese Chance möchte er nutzen. Es ist in den Kompaktaten nichts enthalten über die Gerichtsbarkeit. Das ist nicht erwähnt. Mit der Folge, dass zwar der Herzog von oder der Graf von Tirol sicher eingreifen kann, wenn er will. 1475 wollte er nicht oder konnte er nicht. Er hat nicht eingegriffen. Und diese Chance hat Bischof Hinderbach genutzt, um sich zu profilieren. Das scheint mir auch ein Grund dafür zu sein, dass er hier so aktiv geworden ist. Un brevissimo riassunto, se si può fare, insomma, ecco, coincideva appunto con il professor Politti, il professor Rittmann, sull'importanza del quadro, e dice che ci sono tante cose di cui si sarebbe dovuto parlare, dalla minaccia turca, i rapporti Tirolo-Impero, i rapporti Tirolo-Baviera, i rapporti Tirolo-Venezia, eccetera. E quindi coincideva, mi pare, con questa necessità di allargare un po', o almeno di tenere presente il quadro allargato. Poi ha parlato sulla, credo, opportunità, anche qui conviene di uno studio parallelo di Cusano, Cusano e di Hinderbach, insomma, cosa che se noi possiamo vedere in Cusano una radicalità maggiore, insomma, porta a scontri più accesi. Poi noi vediamo in Hinderbach un atteggiamento più cauto, insomma, più ricerca delle radici, delle tradizioni, delle consuetudini, quindi questo cammino più lento, insomma, che lo porta anche a parlare, ad avere quel comportamento nel processo simonino che abbiamo visto ieri. Ultimo punto, mi pare, qui se parlo male mi corregga il professor Riedmann, insomma, è quello che nelle compattate non appare mai un discorso sulla giurisdizione, sulla Gerichtsbarkeit. E sulla giurisdizione, e che quindi questo rimane un problema, insomma, ancora aperto, ancora da studiare, insomma, perché è lì il punto delicato dove si incontrano poi cioè questo equilibrio, di cui si parlava prima, diventa nella giurisdizione, così, insomma, un problema acuto, insomma, di esercizio del potere. Il professor Quaglioni e poi il professor Chittolini. Brevissimamente, credo che gli elementi di continuità e gli elementi di novità siano stati tutti sottolineati molto bene dalle tre relazioni che abbiamo udito stamattina, e credo che non si tratti di operare delle contrapposizioni. Casomai si tratta di sottolineare qualche elemento di novità per intendere meglio quelle che sono o che possono essere le radici di atteggiamenti come quelli che abbiamo sentito descrivere oggi, la rivendicazione continua della giurisdizione civile e criminale, della superioritas, il senso della autorità e del prestigio che ritorna in ogni atto, si può dire, della politica interna e non del Vescovo di Trento, questa continua rivendicazione del mero e misto imperio, non chiamiamolo sovranità, ma chiamiamolo con i termini che nella tradizione giuridica tardomedievale esso aveva, il mero e misto imperio, l'esercizio della giurisdizione civile e criminale, l'esercizio cioè di quel potere fondamentale, principale, che per ogni princeps del tempo è il primo e fondamentale attributo di quella che poi sarà la sovranità. Dire il diritto, pronunziare il diritto, esercitare la giurisdizione. Credo che nella azione del principe vescovo noi ritroviamo questo desiderio di rimuovere, per così dire, molte delle anomalie rispetto ad un modello di jurisdictio appreso, diremmo, sui banchi di scuola. Atteggiamento che forse può trovarci scettici per lo scarto che poi esiste tra quella che è una realtà consolidata e le buone intenzioni o il modello dottrinale appreso appunto a Padova, ma questa è una questione della massima importanza che credo possa aver avuto anche un rilievo poi nella statutaria trentina. Bella Barba faceva richiamo molto opportunamente a quella rubrica degli statuti criminali in cui si parla dei malefactores, è vero, quod malefactores non recipiantur, e dove c'è una curiosa reciprocità tra la protezione che viene accordata ai delinquentes nelle giurisdizioni della diocesi che sono, è vero, che sfuggono, è vero, alla diretta, alla immediata, è vero, giurisdizione vescovile e viceversa, è vero, sul diritto di essere ricevuti in Trento per coloro che hanno extra territorium rispetto alla giurisdizione del Vescovo di Trento, hanno commesso dei reati altrove. Questa rubrica viene cassata in un momento impreciso, che noi non riusciamo, credo, attualmente a datare con esattezza, ma è molto probabile che sia stata cassata in questo periodo, che è un periodo di passaggio verso un assetto nuovo della statutaria. Anche in questo l'azione del Hinderbach può aver avuto la sua importanza. Grazie. Posso solo aggiungere che Hinderbach è colui che dopo Massovia, quindi dopo 60 anni, progetta per primo la riforma degli statuti, e lo fa quando a Trento siede come podestà un giurista di un certo livello come Paolo Riano, che insegna a Padova e che lui ovviamente fa convenire, al quale presumibilmente affida un progetto di rinnovo, di compilazione totalmente rinnovata degli statuti trentini, che poi verrà portato a termine nel 1503 da Udalrico di Liechtenstein. Sì, sì, beh, esatto. No, è quello, è Loriano che si rivolge con queste parole a Hinderbach, insomma, rivolgendosi a una tradizione dottrinale che tu conosci poi benissimo, insomma, che è quello. Sì, sì, sì, sì, esattamente. Sono rimasti ancora questi abbozzi in un numero dell'archivio del magistrato consolare, abbozzi di statuti probabilmente databili nel periodo hinderbachiano. Ecco. Professor Chitolini. Anch'io come Schiera sono rimasto colpito da questa, direi, felice consonanza di temi che sono emersi parallelamente in tutte e tre le relazioni. Nel senso che si assiste, pare di capire, parla un profano, insomma, qui come in altre situazioni, del resto italiane e tedesche, a un momento di definizione di rapporti, insomma, fra questi vari nuclei di organizzazione politica che in questi decenni sono, come dire, sollecitati a coordinarsi, o perlomeno a coordinarsi in forme perlomeno più esplicite, ecco, se non diverse rispetto al passato. E in effetti è risultato chiaro, mi sembra, come questa esigenza di ridefinizione funzioni sia nei rapporti fra Sigismondo e Trento, da un lato, cioè da Trento verso l'alto, sia da Hinderbach verso il basso, appunto verso le comunità, oppure verso i feudatari o i titolari di investiture feudali. Ecco, qui ci sarebbero molti spunti molto interessanti. Io mi limiterei a due domande. È molto suggestiva. Sono suggestive, mi pare, queste prospettive di indagine che sono state poste dal professor Riedmann su queste forme, in sostanza, proprio anche dal punto di vista, direi, diplomatistico e cancelleresco, con cui si presentano questi documenti. Io mi chiedevo cosa ci sia di simile in Italia, e certamente ci sono molti tipi analoghi, anche se non ho trovato niente, se ne parlava anche ieri, di corrispondente esattamente. Ecco, ma mi pare di capire, per quello che riguarda il documento di Hinderbach, così ci sono dei corrispettivi che certi manuali di cancelleria chiamano, per esempio, obbligazio, no? Semplicemente, anche se il termine è generico, oppure recognizio, nel senso di accettazione di una situazione da parte di un inferiore. E certe volte c'è viceversa da parte del vescovo, o meglio di Sigismondo, è quel tipo di documento che non è in sostanza un privilegio, ma è un'accettazione di una dichiarazione. Ecco, anche qui ci potrebbe essere un termine di acceptatio che suona certe volte, proprio che viene usato certe volte in casi di questo genere. Ma sarebbe molto interessante, appunto, un'analisi molto specifica. Questo volevo chiedergli. Queste espressioni che lui ha trovato in queste sedicenti compattate, cioè Verschreibung e Verbindung, sono consuete al di fuori di questo ambito territoriale in documenti di questo genere, oppure no? Ecco. Una cosa che volevo chiedere molto rapidamente a Varanini era questa: io ho avuto l'impressione dal quadro che lui ha dato di una volontà di presa abbastanza energica di Hinderbach su queste comunità, e con questa rivendicazione di autorità, diciamo, del principe nei confronti di comunità in forme direi ancora più stringenti di quanto io abbia trovato per esempio in area lombarda, dove direi che appunto la situazione e il contesto sono abbastanza diversi, ma si ha l'impressione di qualche maggior rispetto verso, diciamo, consuetudini di autonomia di comunità di pieve, di comunità di valle, con delle abdicazioni a prerogative principesche che sono nel 400, nel 300 e nel 400 abbastanza sensibili. La domanda è questa: esistono degli elementi di comparazione per valutare se, ecco, la situazione che lui ha mostrato corrisponde a quella di altre aree alpine contermini? L'ultima osservazione, poi chiudo, si ricollega a quanto ha detto, mi pare molto opportunamente, Politi. Ecco, cioè anch'io mi chiedevo, mentre sentivo parlare, ecco, in che misura questa situazione può trovare riscontro in un contesto più ampio. Ecco, il Monsignor Roger ha evocato il libro sulla sovranità, appunto, da provare. Mi pare di ricordare che lì l'autore mette in relazione proprio queste vicende del 1468 a una situazione complessiva di difficoltà dei principati ecclesiastici, no? Fa, mi pare, l'esempio di Aquileia, che forse non è del tutto paragonabile a questo, ma che proprio in questi decenni mi pare che la rinuncia formale del patriarca è proprio di pochi, sarà 10 o 15 anni prima. Cioè, mi pare che segue di alcuni decenni l'occupazione di fatto di Venezia. Ecco, a me adesso si tratti di sovranità, no? O di equilibrio, questo mi sembra un discorso un po' diverso, però quello che diceva Varanini concludendo, e del resto è emerso anche in altri interventi, che l'azione di Hinderbach corrisponda a una riaffermazione, in sostanza, di un suo ruolo, ecco, non diciamo se di sovrano o di punto di riferimento comunque obbligato per questa realtà territoriale. Ecco, molti elementi cospirino, se non ho capito male, in questa direzione. Cioè è un momento in cui forse, appunto, entro questa ambiguità, autonomia, no? Però si cerca, come dire, di raccogliere tutti quegli elementi che possono legittimare e fondare un ruolo, diciamo, temporale del principe di Trento. E allora questo mi sembra abbastanza interessante, perché non è soltanto quel processo a cui facevo riferimento prima, cioè questo processo generalmente quattrocentesco, ma è una situazione più specifica forse di un certo... certe forme di organizzazione statale, questi principati ecclesiastici che in questo momento probabilmente attraversano una fase abbastanza particolare. E anche mi veniva in mente, poi chiudo, la domanda della barone di ieri, che mi pare implicitamente insinuava questo fatto: perché Hinderbach in un certo senso non agisce nella vicenda di Simonino come vescovo, no, ma come signore territoriale. Adesso io non so fino a che punto si può andare in questa direzione, ma anche da quello che ha detto prima il professor Riedmann mi sembra che ci siano degli elementi abbastanza significativi. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola ai relatori per la risposta a questi grossi problemi, c'è qualcun altro che chiede la parola per sapersi parlare? Fubini e Gaeta. Volete rispondere adesso oppure raccogliamo queste? Io sono molto breve, perché mi desideravo soprattutto sottolineare un aspetto che è emerso quest'oggi, che mi ha colpito, e che è stata questa scoperta comunicata dal professor Malacek di questo processo di preparazione delle appunto cosiddette, no, compattate, che le presenta in una luce ben diversa da quella che apparirebbe dal documento puro e semplice, e che è una cosa, direi, di importanza notevole, non soltanto locale. Cioè qui c'è un processo di sconfinamento dell'autorità del principe, del duca del Tirolo sul vescovado di Trento, che è un, direi che si pone sulla linea, no, per quel pochissimo che so, di contemporanei sconfinamenti di autorità, di grandi principati, no, di costituzione di questi principati europei, cui il massimo esempio esattamente contemporaneo è quello del Ducato di Borgogna, che poi interferisce con la storia di Sigismondo, si sa, per anche queste vicende, non so, dell'Alsazia, per esempio, degli Svizzeri e via dicendo. Allora, anche l'azione di principati feudali minori, come il Vescovo di Trento, si capisce, cioè, ritornano sulle tradizioni per confermare le loro privilegi minacciati. Quindi è un processo dinamico, non è un processo statico di revisione pura e semplice. Allora certi aspetti ci appaiono in una luce, non so, per esempio, abbiamo visto nel castello che fa dipingere tutta la serie dei vescovi predecessori, cioè è la conferma di una tradizione, ma di una tradizione che deve confermarsi. Ecco, questo che appunto l'unica cosa che volevo fare è appunto mettere in risalto l'importanza di un dato emerso proprio quest'oggi. Ecco. Grazie. Allora, professor Rittman, raccogliamo, ecco, allora venga pure che Gaeta. Dottor Gaeta. La mia è una richiesta di semplice precisazione al professor Varanini. Volevo sapere se questa volontà del principe vescovo Giovanni di Hinderbach di appropriarsi di una propria superiorità dal punto di vista giuridico, intervenendo all'interno di legislazioni e di riforme di statuti, si possa poi portare sul piano pratico con una pressione o una volontà all'interno delle magistrature locali, in particolare dei vicari e dei rappresentanti del principe nelle varie valli, con degli strumenti particolari, per esempio se gli fosse stata data la possibilità di creare birri per proprio conto o fondi in questo senso, se fosse stata data la possibilità di intervenire intanto nel frattempo con procedimenti d'ufficio in alcune cause, sia nella parte di istruzione sia nella parte invece di discussione, cercando comunque di salvaguardare gli interessi della Chiesa di Trento, che poi sono quelli del principe. Grazie. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, hanno la parola i tre relatori per rispondere alle ultime osservazioni e anche per aggiungere e completare il quadro della mattinata. Sì, provo a rispondere allora all'osservazione di Chitolini. Cioè, mi pare che, fermi restando i due livelli, così che avevo cercato di mantenere ben separati, quello della rivendicazione libresca, diciamo così, che Hinderbach fa, per cui annotando appunto lo stato di fatto di fronte al quale si trova, dice così dovrebbe essere, ma non sempre così è. Ecco, credo che nella prassi, nella concretezza delle situazioni, si deve naturalmente distinguere l'unica comunità di valle, fra virgolette, assimilabile ad altre dell'area alpina, del versante italiano delle Alpi, esistente nel Trentino, è la comunità di Fiemme, insomma, sostanzialmente, che ha un livello di autonomia dei margini nettamente diversi rispetto alle altre. Le stesse valli giudicarie alle quali ho fatto riferimento, queste sono cose appunto così già sostanzialmente note dalla bibliografia, sono tutt'altro che non toccate al loro interno dagli influssi signorili dei Lodrone e di altri. Ecco, credo che l'unica area che si possa confrontare con le zone delle Alpi orientali, Cadore e via discorrendo, con la Val Camonica e altre situazioni appunto delle Alpi Lombarde, deve essere la Val di Fiemme. Altrove la situazione è molto più frammentata, più frastagliata, anche rispetto a quello che io stesso ho potuto dire in pochissimi minuti. Ecco, direi questo sostanzialmente. Ecco, quanto all'osservazione del dottor Gaeta, il problema è molto grosso perché è un problema di documentazione, una volta di più. Per quanto così conosco io e so io, credo che i tentativi, appunto, mentre la situazione della Val di Fiemme resta, per quanto si può dedurre dalla documentazione cinquecentesca, sostanzialmente intatta nelle sue manifestazioni pratiche di esercizio della giurisdizione, e l'autorità dello scario resta così sostanzialmente intatta, e quella del vicario resta appunto un punto di riferimento esterno al quotidiano e valido soltanto per per i livelli dell'appello, diciamo. E per quanto ricordo, appunto, nella situazione delle valli giudicarie, per esempio, c'è una dialettica abbastanza significativa relativamente all'attività giudiziaria dei vicari e al loro personale esecutivo, ecco. Ma così non in tutti i casi si può arrivare a esaminare nel concreto, insomma, registri di documentazione d'ufficio, diciamo così, per quanto so io non è abbondante, se non di risulta negli atti di certi notai che hanno rogato per i vicari, ricordo certi spogli del Papa Leoni sul materiale relativo alle valli giudicarie. Ecco, sostanzialmente questo. Già che ci sono, volevo chiedere una cosa a Bella Barba, cioè se ci sono tracce cioè l'aspetto cerimoniale delle infeudazioni viene toccato, cioè si dice qualcosa o no, non che c'è mi risulti mai? No, ma non è detto. La parola Bella Barba, forse il professor Lippe. Io pensavo il professor Lippe potesse essere per ultimo in senso diverso alla. Ich danke vor allem für den Hinweis auf die Wichtigkeit der Gemälde. Die Gemälde sind sicher gleich hoch einzuschätzen wie Bemerkungen zu Handschriften. Man muss sich vor Augen halten, dass der Bischof in dem Kastell im Buon Consiglio, wo der Tiroler Hauptmann sein Quartier hat, dass er dort demonstrativ zeigt, die Wohltäter, die Begründer seiner Herrschaft in Temporalibus. Das ist ein Protest sozusagen gegenüber einem Faktum. Also insofern ist diese bildliche Darstellung von größter Wichtigkeit. Was die Frage nach der Bedeutung von Wörtern anbelangt, von Bezeichnungen, bei dem Wort Verschreibung ist ein sehr häufiger Ausdruck. Er ist molto comune per documenti, mit denen jemand eine Verpflichtung eingeht. Eine klassische Definition im Wörterbuch von Grimm: Verschreibung, gewöhnlich zur Bezeichnung eines Dokuments, in dem jemand einem anderen gegenüber eine Verpflichtung eingeht. Das ist eine klassische Definition und ist auch sehr, sehr häufig. Aber hinter diesen Worten stehen sicher lateinische Ausdrücke. Zum Beispiel parallel Verschreibung und Versorgnus. Das Wort Versorgnus ist im Deutschen nicht häufig. Wenn man Versorgnus versucht zu übersetzen in das Lateinische, kommt man auf eine Assecuratio, cura, Sorge. Also ich glaube, dass Assecuratione ist gleich Versorgnus. Und es müsste ein Wort geben, das auch Verschreibung ins Lateinische übersetzt. Ich kenne das Wort noch nicht, also das, aber es muss eine Parallele vorhanden sein. Es wäre sicher sehr wichtig, diese Parallelen auch vom Juristischen her genau zu verfolgen. Ein weiteres Desideratum wäre, den genauen Text dieser Verschreibungen in ihrer Genese einfach systematisch zu verfolgen. Einige Sätze der Verschreibung von 1468 sind wörtlich aus früheren Urkunden übernommen. Manche sind wenig abgewandelt. Wie viel sind sie abgewandelt? Das ist die Frage. Un'altra frage, die noch offen ist, die mich persönlich interessieren würde in dem Zusammenhang, ist die Verwendung des Wortes Compatate. Für uns alle ist Compatate der Begriff schlechthin für diese Vereinbarungen. Ich habe versucht, das mit Hilfe italienischer Wörterbücher zu klären. Im Dizionario Etimologico Italiano von Carlo Battisti und Giovanni Alessio steht Convenzione reciproca fra due stati nel Settecento. La prima volta è stata forse nel Settecento. Allora forse una Sache, die von Trentiner Gelehrten im 18. Jahrhundert für diese Vereinbarungen gefunden worden ist und dann als Terminologie in die Fachsprache Eingang gefunden hat. Vielleicht, aber nicht in Originalen vorhanden. Wenn das so ist, ist es für mich auch interessant, dass im 18. Jahrhundert Gelehrte Trentiner vielleicht doch versucht haben, diese Ungleichheit etwas zu kaschieren durch einen Ausdruck der Compatate, der also eine Gleichwertigkeit ausdrückt. Vielleicht ist es so, ich muss es erst genauer noch versuchen zu ergründen. Aber die genaue Analyse von solchen Worten wird sicherlich weiterführen. Penso che non ci sia bisogno di una traduzione puntuale, insomma, anche perché il professor Rittman ogni tanto si scappa nell'italiano e quindi ci dà tutte le giustificazioni di apprendimento. Ecco, ma appunto il problema era quello della centrale, insomma, ecco, della sovranità, della Freischeibung e della necessaria indagine ancora appunto da fare. Il rapporto tra il vocabolo che è derivato dalla tradizione italiana, forse nel XVIII secolo, mi pare abbia detto il professor Rittman, insomma, delle compactate. Ecco. Del dizionario etimologico italiano da Carlo Battisti e Giovanni Alessio e Settecento, convenzione reciproca fra due stati, ma anche nel senso religioso, decreto del Concilio di Basilea. Questa è un'altra cosa. Questa è 400. In latino, latino medievale compactatum, come neutro. Sì, questo aliositi. Adesso lascerei la parola al dottor Bellabarba. Solo due piccolissime precisazioni che mi vengono poi dagli interventi di chi ha posto le domande sulla necessità che poneva sia Politi sia Chittolini del quadro largo. E allora è necessario considerare in questo periodo l'evoluzione dell'impero. Cioè, pertinente l'osservazione di Chittolini che siamo in un momento di definizione dei rapporti in Italia, ma anche a fine 400 nell'impero considerato come struttura più ampia. È a fine 400 che si istituzionalizzano le diete imperiali, ad esempio, come fatto formale, decretato. Quindi si apre la strada in questo periodo a un dualismo istituzionale all'interno dell'impero. E poi, questa è un'osservazione che riprende in parte la domanda del professor Fubini, è necessario secondo me anche considerare proprio la specificità del territorio davanti al quale ci troviamo. Accennava il professor Fubini alla qualità di piccolo territorio. Beh, i principati ecclesiastici sono un territorio che all'interno dell'impero hanno una fisionomia e qualità loro specifiche. Chi guardi al fine Settecento, al periodo di tramonto dell'impero, troverà che l'istinto di sopravvivenza, cioè un sentimento di adesione filo imperiale, si conserva proprio nei principati spirituali e nelle città imperiali. E allora che a fine 400, di fronte a una compattazione dell'istituto imperiale e soprattutto con l'opera di Federico III e poi di Massimiliano, che a questo, come dire, questo quadro istituzionale più stretto corrisponda, senza paradosso, un rafforzamento anche di strutture istituzionali di quei principati ecclesiastici, di quelle città imperiali che più sono affini come sentimento così di fedeltà e di appartenenza alla figura dell'imperatore, non cessa di essere un paradosso, insomma, solo questo. Grazie, allora concludiamo, credo, i lavori della mattinata, oltre al ringraziamento molto forte per il tanto di nuovo che è uscito stamattina, credo solo di dover dire due cose da come profano un minuto soltanto, anzi pochi secondi. Ecco, io credo che sia emerso molto forte da una parte, vorrei dire, questo carattere di mondo pattizio, ecco, che è uscito da tutte le relazioni, ecco, in cui credo anche questa contrapposizione tra Verschreibung e compattate probabilmente trova molti livelli intermedi, insomma, ecco, come ha detto anche Riedmann, di interpretazione. Ecco, siamo nel mondo degli Herrschaftsverträge in questo periodo, ecco, in cui non è mai possibile o difficilmente possibile dire se si tratti di trattati tra pari o tra pari superiore, insomma, ecco, perché il problema è questo, proprio di abituarci a guardare quest'epoca con, al di fuori di schemi, appunto, che sono seguiti soltanto alla formazione e al predominio dello Stato moderno. Ecco, credo che questo sia venuto fuori abbastanza stamattina, come credo sia venuto fuori molto chiaro proprio questa personalità dell'Inderbach, insomma, il suo tentativo, mi pare una parola che ha usato Monsignor Roger, ma altri, di razionalizzare, cioè fondamentalmente di cercare di dominare questo mondo, almeno nel tentativo, ecco, introducendo sulla base della sua formazione appunto giuridico e giuridico-romanistica forme di razionalità. Grazie, al pomeriggio alle ore 15.